tocó. Pido mucha disculpa a nuestro público, pero en este día no podemos transmitir porque el Valles está en una asamblea muy importante por su futuro. Pero hemos preparado un potpourri, como se dice en español, del último año del Valle. Muchas cosas que la Comuna de Roma y el Teatro de Roma mataron. ¿Dónde estaba la vida? La vida que van a escuchar ahora. Ahora está la muerte y el silencio. Buen ascolto. Iniciamos con una serata del 23 de diciembre del 2013. Una serata que Teatro Valle dedicó a propio a Radio Onda Rossa, da dove se la trasmette. Era il 23 di dicembre del 2013 e questi sono Los Asaltos Frontales con il Muro del Canto e la canzone la van a conocer. Buon ascolto. E tocco! Roma mi dice, Roma mi dice, claro che sì. Roma meticcia, su la voce, su su. Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. Cambierà lo stento, che sorpresa, che spavento. Siamo al Parlamento, con una rabbia dentro. Questa è bella vostra, adesso Roma è nostra. E come batte il cuore, per via del corso in piena. Del fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via per il tetto del cielo, mani indirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite. Io non amo un nome mille, ho una porta planetaria. Ora un problema, siamo dentro un esco cessinario. Italiani, peruviani, eritrei, marocchini. Abbiamo casa, dolce casa, qui. Siamo in occupazione, odiate di avvenzione. Verso la finanza, il CC o corsi controllori. Prima di scomperarci, scomperatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello. Non lo sai, la notte è molto grande. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano cappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Sì, fratelli miei, non sono solo radio molto grande. La gente soffre delle strade, basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Cosa? Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. C'è un migliaio qui gli stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Dal canalone al bambù, ai rosci, a fianco ai ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. Quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la biccia, una Roma meticcia. Io metto la faccia, questo cuore sembra di un marziano. Questa porta mette i primi dietro il partigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piacere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti, coraggio agli attivisti. Sempre in guerra, contro i razzisti, porci, post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia è molto grande. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Sì, fratelli miei, lo so, lo so, la rabbia è molto grande. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, sulle voci valle, Roma meticcia. colpi casi, per tu bello, per tu bella, assalti, tra Lorenzo, Torso, Chiesa, Cento, Celle, Vecchi, Roma, Meticcia, claro che sì, Magazzini, di Casa Albertone, Portonaccio, Iuscu, Ferdinieto, Spinaceto, Abbigano, Oscu, Prima Valle, Amaro, Campo Basso, Stritte, qui, Roma, Meticcia, claro che sì. Questa invece è una serata del 20 de maio del 2014, una serata dedicata a una poetessa, Alda Merini, in occasione della presentazione di una pellicola sulla sua vita che si chiama La pazza della porta accanto, una pellicola della direttora Antonietta Dell'Illo. Buon ascolto. Come direbbe Alda, siamo pazzi, arrendetevi. Io voglio sentirmi sporca, sporcata anche dalla fama, d'altronde. Chi mi ha affibbiato l'epiteto un poco doloroso di poetessa d'amore ha sbagliato. Non sono mai stata una donna d'amore e neanche una donna in ane, ma una donna d'azione che ha scritto d'amore per forza, come grido di vendetta. Perché l'amore stimola alla vendetta. Credo che il peccato sia la più bella invenzione della vita, secondo me. Certi peccati, no? No, non vuole soffrire, gliel'ho detto prima, che vuole il denaro per star bene. Poi magari lo butta via, però vuole. Perché uno non si cucina? Perché spesso non ha niente da mettere in pentola. E perché dovrebbe cucinare? Mi sarebbe piaciuto tanto curare le anime, fare lo psicanalista, lo psicoterapeuta, il curatore di anime. Forse avrei potuto fare anche l'imbalsamatore. Sono proprio la pazza della porta accanto. Non è che ho avuto delle storie molto belle perché sono una persona normale, neanche matta poi tanto, no? Per poter crescere bisogna avere un minimo di segreto nella vita. Una delle cose che noi tutti dobbiamo fare è lasciar vivere gli altri, vivere e lasciar vivere. Soffrire è un'arte. Bisogna imparare a soffrire. La nascita dell'uomo prevede sempre un grande taglio. Non ho più materialmente voglia di vivere, perché capisco che sono stata imbrogliata da tutti, persino da me stessa. Chi mangia cibi sbagliati, si alza a orari sbagliati, incontra persone sbagliate e decide di vivere in modo diverso, è sempre soltanto il poeta. E così mi sono trovata sola come un cane, perché non erano più sufficienti né la mia bellezza passata né la mia bravura, neppure il mio contento per la morte. La voce di Alda Merini grida. Vuoi invocare un telefono, vuoi invocare un treno, vuoi invocare una qualsiasi lettera, vuoi guarire e vuoi morire a un tempo. Non ti viene mai in mente che potresti semplicemente vivere. Antonietta Dell'Illo. un mondo di cui a noi appunto arriva principalmente questo aspetto indubbiamente importante che ha segnato la vita della Merini, che è quello della follia. Però la Merini è molto altro. Io vengo da Napoli, la troupe veniva da Napoli, chiamavamo, dice allora veniamo? No, oggi devo fare la spesa. Va bene, allora domani. Vi chiamo io gentilmente, vengo fra due giorni, no, la posta. Allora ho detto ragazzi, se voi, noi vogliamo fare questa cosa, partiamo e che Dio ci accompagni. Siamo stati in questa casa piccolissima, veramente due giorni, dalle 9 alle 8 di sera, sempre a chiacchierare. E poi quando sono andata via dice, e ora va via, ho detto beh, sì. E allora mi piaceva cercare di restituire in maniera sobria una persona così, così contraddittoria, così anche saccheggiata anche da se stessa. Profonda ma semplice. In albergo il portiere ha detto signora documenti e lei dice a me sono una poetessa. E una delle cose straordinarie secondo me del film è che usi tutto. C'è la narrazione, cioè quello che a me interessa quando mi rimbocco le maniche e inizio un lavoro è narrare, raccontare. Sono una persona estremamente al contrario, cioè se devo fare un film di finzione penso al documentario, se devo fare un documentario penso a un film di finzione. Tocco! E adesso invece una serata che c'è stata il 24 maggio del 2014, dedicata al progetto Le ragazze del porno, e nel quale abbiamo proiettato per la prima volta un film porno nel teatro Vai, un teatro del 700. Buon ascolto. Grazie a tutti per essere venuti, innanzitutto grazie per il vostro contributo. Il progetto è quello di fare un film collettivo di appunto 10 cortometraggi porno. Non abbiamo ancora i finanziamenti per farli tutti, quindi abbiamo lanciato un crowdfunding e stiamo facendo una serie di iniziative. La prima è stata Art for Porn, quindi grazie alla collaborazione e al contributo di amici artisti che ci hanno donato le loro opere. Abbiamo fatto due giorni di vendita di opere ed è stato bellissimo e molto importante per noi perché ci ha dato anche il coraggio di, come dire, venire allo scoperto. Spesso le persone ci chiedono ma perché c'è bisogno di un porno femminile? E la ragione per cui noi lo vogliamo fare è perché pensiamo che il porno che c'è adesso, porno in quanto rappresentazione proprio della sessualità, cioè della sfera più intima delle persone, sia insufficiente. Parte dell'educazione sessuale delle persone, insomma, ognuno di voi sa che cosa ha fatto con il porno o che cosa non ha fatto. Ehi, ciao Barry, come va? Ok ragazzo. È un film che risponde a una domanda, no? A che cosa serve il porno? Qualsiasi maniera di esprimere l'umano può essere utile o inutile nel momento in cui quella cosa serve per rappresentare qualcosa che altri codici non possono rappresentare. Non ho mai visto tanta gente vedere quello che si vedrà insieme, si vede in delle condizioni particolari. Concludo questo film che state per vedere, che ha un altissimo valore filosofico, conoscitivo e soprattutto estetico, come lo vedrete, per questo mi hanno invitato come critico, è veramente zozzo. Godetevi i nostri amici doppiatori, quei buoni dialoghi che ci sono. Questa è una storia da raccontare, questo è amore. Una fusione amorosa base di Damiana, potentissima. E adesso due cose piccole, quelle che si chiamano pastiglie o pillole. La prima sopra il Riot Swing. Noi in 3 anni al Val abbiamo fatto 7 o 8, non ricordo, seradas, noches de swing scatenato con un montón de gente che bailava nel foyer e nel palco una cosa increíble. Esa es la última. Después, otra cosa muy linda que hicimos fue panquinari, o sea que transmitimos algunos partidos del Mundial de Fútbol en el Teatro de 700 con la ayuda de un blog de chicos muy simpático y muy amante del fútbol que se llamaba El Último Uomo. Entonces, después de la película porno, también los partidos en un teatro de 700. Y lo que van a escuchar es el spot que anunciaba. Sing, sing, sing, everybody start to sing. Ba-ba-ba, it up, up, down. Now you're taking with a swing. Swing, swing, swing, swing, everybody start to swing. Ba-ba-ba, it up, up, down. Now you're taking with a swing. When the music comes down, everybody sing around. There is one thing that you should know. Sing it out and sing it low. Sing, sing, sing, sing, everybody start to sing. Ba-ba-ba, it up, up, down. Now you're singing with a swing. Questo per voi è un momento molto importante. Dovete usare l'eleganza, perché voi siete fatti d'eleganza. Controllo di sala, giochi di luce, visione di palco. Non voglio distrazioni. No. Gioco comodo. Limitate gli scricchioli. Cullateli, ma non troppo. Dobbiamo accoglierli come non sono mai stati accolti. Non devono più lasciare questo teatro. E non fate quelle facce di velluto. Itocco! Y esto es la testimonianza de uno de nuestros proyectos más largos. Se llama Crisis, es un laboratorio de dramaturgia por actores y dramaturgos de Fausto Paravidino. Y este es como un ensayo final. Y ese ensayo final es del 10 de junio del 2014. Después vamos a ver todos nuestros proyectos que estaban en el Valle, que eran Rabia y otro laboratorio, o mejor dispositivo de formación y producción, y todo el nuestro Follamore, y después la producción de El Macello di Giobbe di Fausto Paravidino. Antes habían todas estas cosas en el Valle. Ahora estás la muerte. Pero vamos a escuchar algo de Crisi, un final del 10 de junio de 2014. Zarok. Attacchi di panico? Zarok! Vuoi superare un lutto? Zarok! Vuoi risollevarti? Zarok! Vuoi tornare a vivere? Zarok! Prendilo anche tu! Vivi bene! Vivi meglio! Zarok! Perché non provarci? Perché non vivere ancora? Zarok! Riprenditi la tua vita! È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Buongiorno. Buongiorno. Tocco. Bueno, ese era Crisi final y esto en cambio es todo nuestro folle amor, todo nuestro folle amore, que es una performance, una investigación teatral, no sé cómo llamarla, pero algo de escritura escénica que se basa sobre lo comizio di amore di Pasolini, detto in maniera molto simple. Però questo è una della salita dell'uscita del folle amore e questa è l'uscita del Arti Vive Festival de Soliera in Emilia Romagna il 27 de julio de 2014. Buon ascolto. Non vogliamo urlato? Folle amore, folle amore, folle amore. Tanto ascolto, niente solipsismo. Pronto, merda? Sono io? Sì? Sono un attore? No, sono una persona molto attenta e l'ascolto. Oh! Uno, due, tre. Merda, merda, merda! Culo. Prima che vi faccia sgomberare. Ciao, ciao. Oh, ciao. Ciao. Non è che potete preoccupate tutto, pure spazio, questo è solo pubblico. Filma i baci. Tutti i baci, tutti i baci. Che state a fare? Gli scemi. State a fare la... No, niente, perché pare che stiamo facendo qualcosa. No, visto che facevi la... Questo è un servizio di un matrimonio. Facciamo salire lei.

si vede anche nello spoglio da voi. Ma tu sei un artista? No, cioè, ma cosa vuol dire essere un artista? Sono metalmeccanica, camminiamo in persona. Hai conosciuto qualcuno in una fila? Fila o fonde? È giusto occupare? Sì. È giusto, giusto? Tocco. Bueno, y ahora rimaniamo sempre al l'Arti Vive Festival che ha ospitato il Valle poco prima del suo sgombero dal il 24 luglio c'è stata la novena la nona sessione di Rabbia. Ese dispositivo que conjunto insieme un progetto di formazione e di produzione, e questo è il terzo tempo di Rabbia, ossia dove vengono presentate molte scritture che sono in scrittura, appunto. E questo è il terzo tempo di Rabbia all'Arti Vive Festival del 24 luglio del 2014. Buon ascolto. Il terzo tempo di Rabbia è finito, adesso è finito qui. Abbiamo qualche minuto di pausa prima del concorso di microdrammaturgia SMS. Ciao Stefano, con quella tua F blezza. Non ce la faccio a stare dietro a tutti. Sono un uomo. Aspetta il dolce del bagno? Allora poi c'era l'elefante, il culone scorreggione. Per favore smettete di litigare, almeno al mio funerale. Compleanno. Nicolò, era una proposta come un'altra. Pacme. ci punta contro. Tutti giù. L'hai sentito anche tu, vero? Cosa? Quella voce. Che voce? È importante! Si sente il rumore di uno sciacquone. Un attimo! È importante che io riabbia! Arrivo! Mi voglio le mie lacrime! No, no, sono le lacrime che non ho mai pianto. Ma sospira e allarga le braccia come a dire: ma allora vada via il culo. Voglio morire! Cosa? Voglio morire nell'armadio! Voglio morire nell'armadio! Cioè, vedi l'armadio lì? Ma è di Ikea. No, no, non è Ikea. È il mondo convenienza. Cazzo, hai comprato a fare questo armadio durante di inutilità assoluta! Grande popolo canino si ribellerà e vedremo l'alba di un mondo migliore. Le sarete messe al muro tutte nude, tutte, e non mi stare addosso, non mi stare addosso, non mi stare addosso, hai capito? Io sono un angelo e tu non conti un cazzo. Giacomo! Bueno, e ora stiamo terminando e terminiamo con il macello di Giobbe, il nostro ultimo progetto di produzione. Ora vamos a escuchar las músicas del macello di Giobbe en un concerto, come si chiama, in un concerto aperto de prova. Che è successo al nuovo Cinema Palazzo di Roma il 16 di settembre 2014. Si chiamava Aperto per l'ascolto, le musiche del macello di Giobbe. Subito dopo ascolteremo la gravazione, la registrazione del macello di Giobbe in su debut mondial il 15 di ottobre 2014 a Bruxelles, e saranno come 11 minuti, come un resume, un trailer delle spettacolo. Ma prima, se qualcuno ancora non avesse capito cosa è successo al Valle, c'è una canzone che lo spiega. Si chiama La canzone de Marinelli, interpretata por Enrico Melozzi. Buon ascolto con La canzone de Marinelli, le musiche del macello di Giobbe e il macello di Giobbe. Nos vemos forse il prossimo jueves, il prossimo giovedì. Arrivederci da Itaca, la trasmissione más inútil che esiste, la trasmissione del Teatro Valle senza il Teatro Valle. Arrivederci. È un brano originale composto su una melodia già simile, scopiazzata, ma nei limiti delle regole dettate dalla SIAE, che non rispettiamo. Ah, il brano si intitola La canzone di Marinelli. C'è un giro a vuoto all'inizio, lungo, per entrare nell'atmosfera. Questa di Marinelli è la storia vera, che ci voleva cacciare il 31 sera. Ma un giorno Matteo Renzi gliel'ha detto: cacciali a Ferragosto, poi senza tetto. Si può applaudire. Con 10 strofe. Letto sui decideri, no, sogni, mentre nell'assemblea volava morti, un bacio della Di Biase a Franceschini, decise del teatro i volgar destini. Qua c'è la modulazione. Ecco la spaccatura tra gli occupanti, ecco vi sgomberiamo tutti quanti. E mentre si preparava il celerino, Barani strattava con Maravidino. E qui invece entriamo più nel dramma della Marinelli. Tanto la Marinelli con la ciabatta già stava pregustando la disfatta. La chiama Franceschini preoccupato, qua rischia di cascar l'assessorato. Gira buono. È uscita un'agenzia, l'ha detto l'Anza, nell'assemblea ci son dolor di panza, questa notte militante non si frena, apostrofo il compagno Fulvio Moleta. E qui un altro ulteriore passaggio. Allora si propose Sinibaldi, vado a trattare io con gli Spavaldi, io offro casa e non finestra, orsù ingoiate in fretta sta minestra. Ecco la risposta degli occupanti, sulla data non ci sono santi, da sto teatro non ci sgombrerai, ci autorizza l'ex ministro Bravi. Via cara Marinelli, questa sera abbiamo rovinato l'atmosfera, anche se i desideri accenderai, quest'anno tu in vacanza non ci vai. Noi ci trasformeremo in carovana, non resisteremo settimana, poi ci dedichi... Ricomincio. Perché è un po' duro da dire che ci trasformeremo in carovana, perché me lo del culo, ve lo dico proprio così. Noi ci trasformeremo in carovana, non resisteremo settimana, poi ci dedicheremo con parsimonia ad occupare spazi anche in Culonia. L'ultima drammatica e triste strofa. Questa di Marinelli è la storia vera, che ci vuole a cacciare il 31 sera, dovessi poi mandarci giù in galera, non fermerai la nostra primavera. Tocco! Non potremo metterci d'accordo invece che giocare l'uno contro l'altro. Se non è mio è tuo, se non è tuo è mio. Perché non facciamo un po' per uno? Qualcuno che perde c'è sempre. Questo Dio qui o è cattivo o non sa fare proprio niente. Papà, come va col negozio? Ma io non fallirò! Papà, sei già fallito! Non si ottiene il bene con il male. Non farlo. Tu non hai fatto mai niente di male. Tra qualche mese i dubbi di stanotte faranno solo tenerezza a tutti. Thank you. abbiamo vinto. E io ho perso. È un gioco in cui vincono tutti. È inutile che cerchi di spiegarti che io non sono io. Quello che faccio io, lo faccio solo io. Non comprendermi e non perdonarmi. Non voglio il peso della tua volontà. La mia voce è l'ingiustizia e io sono il suo strumento. Un padre che uccide i suoi figli non serve. Vai via! Il lavoro è un padre. Io ti voglio bene, figlio mio. Ti vorrò sempre bene, però devi imparare che c'è qualcosa in più della ragione. Che se ti sembra di aver fatto i conti, se sei sicuro di essere perfetto, c'è pur sempre qualcosa che non sai. È sempre dell'uomo la colpa del mondo. E dov'è la natura? Dov'è il destino in caso? Dov'è Dio? Ma non lo vedi che non c'è? Credi in un Dio cattivo per giustificare la tua di cattiveria, ma fai male. Così soffri due volte. Il mondo non è per gli indecisi. Il vero crimine non è scegliere il male. È non saper scegliere. Io questo delitto non lo commetterò. Farò del bene per avere del bene. Questo è il mio egoismo. Così sono egoista. Io! Sono i soldi. Gli esseri umani non parlano più. Muoio. Vuoi che preghi? Fai un'altra cosa. Spegni una stella. Fai nascere un fiore. Sposta una nuvola in Asia. Inventa una specie. Distruggine un milione. Ma lasciala qui ancora un po'. Non tornano, purtroppo. Sono i vivi ad andare di là, non sono i morti a tornare di qua. Papà, tu non hai mai creduto in Dio. Ti pare il caso di cominciare adesso? Adesso che non serve. Se mamma è morta, è stata colpa tua! Da dove vengono tutti questi soldi? Soltanto conoscere il tuo cuore e poi morire. Abbiamo imprestato a tuo figlio dei soldi perché scommettesse contro di te. Perché vendesse e scommesse contro di te. Se tutti hanno scommesso i loro soldi, che tu saresti fallito dopo un mese. In questo mese chi ti impresta i soldi? Chi viene da te a comprare? Chi può scommettere contro tutti gli altri che tu non fallirai? Per questo sono fallito. Saresti fallito comunque, ma tuo figlio non ci avrebbe guadagnato. Ha scelto la tragedia per non vedere il dramma. Si ama solo da cretini. Chi non è cretino vuol dire che non ama. Tu non mi ami. Ti sembro cretina? Io non mi fido di te, tu non ti fidi di me. Ma mi sembra un buon affare. Siamo pari, rischiamo tanto uguale. Non mi posso fidare di uno come me. Perdonami. Se fossi migliore farei un lavoro migliore. Sì, può darsi, magari, ma io non sono migliore. Tutti migliori dobbiamo essere, per forza. E noi che non siamo migliori, cosa dobbiamo fare? A noi peggiori cosa è dato? Non possiamo desiderare? Dobbiamo solo ambire a essere migliori? E chi non ce la fa? Non rubare, non uccidere, non desiderare, dice. E chi è che ha voglia di rubare? Chi è che ha voglia di uccidere? Chi di desiderare? Chi è che non desidera? Chi ne ha? E chi non ne ha? Chi non ne ha per forza che desidera? E ruba! E all'occorrenza uccide. Parli di Dio! Perché sono io. E ho rinunciato ad avere fiducia per amore della vostra disperazione. Toccò!